Avventurieri, avete seguito il vostro istinto e vi ha guidati sulla strada giusta. Avete evitato una trappola letale. Ora, con la vera mappa tra le mani, il vostro cammino può proseguire.